La provvidenza d'Ars, la scuola per ragazze. Ars non possedeva scuole degne di tal nome. Non c'era né maestro né maestra. Durante l'inverno si faceva venire un maestro forestiero e i fanciulli e fanciulle andavano insieme a scuola. La qualcosa dispiaceva molto al curato. Prese subito la sua decisione. Ci sarebbero state in paese due scuole. D'accordo con l'eccellente sindaco Antonio Mandì, si mise alla ricerca di un maestro bravo e noto. Avrebbe abitato nel locale messo a disposizione dal comune e si sarebbe occupato unicamente dei ragazzi. Avrebbe voluto trovare in parrocchia il maestro sognato, ma questo diplomato, come vedremo, inizierà a insegnare solo nel 1838. Fu incaricato dei ragazzi un forestiero, un buon cristiano di nome Gaillard. Durante i primi anni farà molta fatica a riunire tutti i suoi alunni fuorché nella brutta stagione. Ma che sarebbero divenute le fanciulle? Dal 1820 al 1823, dato che buone persone del paese erano disposte a custodirle e a insegnare loro i primi elementi, Don Vianney maturò il suo progetto e mise insieme un po' di fondi. Cercò in parrocchia anche le future maestre e scelse per questo compito delicato due ragazze innocenti e pie, Caterina Lassagne e Benedetta Lardet. Fino allora si erano occupati di lavori di campagna e non avevano quindi né scienza né esperienza, ma erano di spirito delicato e di molto buon senso, di carattere energico e dolce insieme. All'inizio del 1823 Don Vianney le mandò a Farin, nella casa delle religiose di San Giuseppe. Pagava di sua tasca l'intera pensione. Là le ragazze non solo ripresero i loro studi, ma si iniziarono anche ai futuri compiti facendo scuola alle alunne più giovani dell'istituto. Nel marzo dell'anno seguente il curato d'Ars comperò una casa nuova detta Casa Givre nei documenti e situata dietro la chiesa. Per acquistarla sollecitò le offerte della carità e sacrificò tutto ciò che poté dei suoi beni personali. Voleva aprirvi un collegio, come ha notato il sindaco sul registro comunale. La casa non era né di lusso né grande, un'unica sala a pian terreno dove si sarebbe fatta la scuola e al primo piano due piccole camere, ma l'insieme era sufficiente per contenere una ventina di scolari e alloggiare le maestre. Del resto, le altre scuole del paese non erano migliori. Quella casa era piaciuta al curato perché posta al centro di Ars e in prossimità della chiesa. Solo che per pagarla si rovinò talmente che in seguito non ebbe più di che regolare gli atti del notaio. La scuola gratuita delle fanciulle si aprì nel novembre del 1824 sotto la direzione congiunta di Caterina e di Benedetta. Gianna Maria Chaney di Jarsans, che aveva 26 anni e che in confessionale era stata guarita dai consigli di Don Vianney da una punta di mondanità, fin dai primi giorni venne in aiuto delle giovani direttrici. Meno delicata e meno fine delle compagne, era nata per i lavori manuali. Il curato le fece dare lezioni di cucito. Gianna Maria, che ad intermittenza faceva la sorvegliante, sarà insieme cuoca, lavandaia e tuttofare del piccolo monastero. Don Vianney non prescrisse alle sue istitutrici nessuna divisa speciale, non impose nessuna regola scritta, nessun voto, ma senza farne delle religiose, volle che ne praticassero le virtù. Caterina Lassagne doveva rimanere per 20 anni alla testa della nuova istituzione. Ella si mostrò sempre degna dell'assoluta fiducia che le accordò il curato d'Ars. Anima semplice e di fede profonda, apprese da lui a sopportare senza mormorare le privazioni, le angosce, il lavoro pesante. Gianna Maria Chaney, sebbene molto devota, per suo carattere imperioso doveva mettere a quotidiana prova la pazienza di Caterina. Nel 1830 la giovane direttrice ebbe l'immenso dolore di vedere morire la sua buona e dolce amica Benedetta Lardet. Colei che la sostituì, Maria Filiat di Miserie, di professione sarta, divenne inconsciamente per la povera Caterina una croce pesante, tanto era qualche volta imperiosa e contrariante. Dio lo permetteva e il santo di Ars aveva fatto tale scelta dopo aver pregato. Era necessario che Caterina abbellisse la sua corona ed era perciò utile che accanto a questa dolce mistica ci fossero coeducatrici severe dotate più di testa che di cuore. All'ode di tutte le persone che Don Vianney arruolò nella sua opera, dobbiamo anche dire che lavoravano con molto disinteresse. Non avrebbero avuto altro salario che il loro mantenimento, altra ricompensa terrena che la soddisfazione di fare il bene. Perciò a San Martino del 1824, Caterina e Benedetta, avendo preparato gli oggetti indispensabili, si installarono nella loro scuola. Tutto era estremamente povero. Don Vianney aveva promesso di assicurare alle maestre il vitto e l'alloggio, ma esse non trovarono in casa di che prepararsi il primo pranzo. Scoparono l'abitazione e poi pensarono di tornare a mangiare a casa loro. «Ma no», dissero infine cambiando pensiero, «rimaniamo. Ci manderanno da mangiare, se vogliono». Ed ecco che arrivarono le due madri a portare delle provviste per le loro figlie. Fin dalla prima ora quella casa meritava davvero il bel nome di Provvidenza, che sarebbe divenuto famoso. L'indomani mattina le ragazze del paese si riunirono attorno alle giovani maestre, ma subito, riferisce Caterina, siccome la scuola era completamente gratuita, le parrocchie vicine ne approfittarono. Ci furono mandate fanciulle da Miserie, da Savigné, da Villeneuve, eccetera. Si dovette trasformare il solaio in dormitorio. Il primo anno, 1825-1826, vi alloggiammo 16 alunne. Così, in modo imprevisto, si era fondato un piccolo pensionato. Non si esigeva nessuna retribuzione in denaro. Il curato non ne voleva nessun costo. I genitori fornirono i letti e la biancheria e presero l'abitudine di portare delle provviste. Lentamente tutto finì per sistemarsi. La casa della provvidenza e il curato mendicante. Quando Don Vianney vide riempirsi a tal modo la sua modesta scuola, ebbe una nuova ispirazione. Quel buon pastore aveva incontrato nel paese o nelle campagne dei dintorni povere piccole creature, orfanelle senza tetto, figlie di genitori snaturati o troppo poveri. Erano mandate a mendicare o poste giovanissime come domestiche presso padroni senza religione. Delle cose divine ignoravano tutto e non imparavano che il vizio. Il cuore tanto compassionevole del curato d'Ars non poté resistere. Risolvette di aprire, nella stessa abitazione della scuola, un asilo che avrebbe portato il significativo nome di Provvidenza. Quella casa, infatti, non avrebbe avuto altro sostenitore all'infuori del Padre che è nei cieli. Nonostante tutto, il nostro santo temeva di tentar Dio con un'impresa temeraria. Una domenica del gennaio 1827, pregò i suoi cari parrocchiani di unirsi a lui in una novena in onore della Santa Vergine per conoscere la volontà di Dio. La sua risoluzione si rafforzò anche più e la mandò ed esecuzione. Innanzitutto bisognava ingrandire la casa. Per questo Don Vianney acquistò un po' di terreno. Egli stesso tracciò un progetto della costruzione. Poi, per dare a tutti l'esempio, per incoraggiare gli operai a affrettare il lavoro, divenne manovale, aiuto carpentiere, preparò le pietre, mescolò la calce, trasportò i materiali. Terminati i lavori, volle che la casa accogliesse solo fanciulle abbandonate. Le ragazze di Ars potevano venire solo come alunne esterne. Perciò le ragazze benestanti dei dintorni, col 1827, non furono più ammesse. Per cominciare, dice Caterina Lassagna, si accolsero due o tre piccole disgraziate, ma a poco il numero aumentò talmente che la casa qualche volta fu troppo angusta per contenerle tutte. Le orfanelle, con questo termine si chiamavano abitualmente tutte le pensionanti della Provvidenza, non erano ordinariamente accettate prima degli 8 anni e non venivano dimesse che dopo la prima comunione. Se si presentava qualche povera ragazza di 15, 18 o anche di 20 anni, il curato l'accoglieva molto volentieri. Queste Maddalene avevano bisogno, forse più delle altre, di un focolare e di una madre. Spesso arrivavano mezze nude, coperte di pidocchi, racconta Gianni Maria Chanai, Nulla eguagliava la tenera compassione che il nostro santo aveva per quelle povere abbandonate. Ce n'erano di quelle che Don Vianney raccolse dalla strada. Alcune completamente abbandonate avevano alla testa piaghe ripugnanti. Finché ci fu un angolino libero, nessuna di quelle povere infelici fu respinte. Un giorno il santo ne portò una che aveva trovato a vagabondare. Disse a Caterina: «Prendete questa poveretta che il buon Dio vi manda. Ma, reverendo curato, non c'è più un letto, ma c'è sempre il vostro». La giovane direttrice per un istante aveva dubitato della provvidenza divina. Subito pentita, accolse fra le braccia e si serrò al cuore la ragazza. La compassione di Don Vianney per l'infanzia abbandonata non si limitava a sterili gemiti, ma si traduceva in azione feconda. Una volta mi è capitato, riferisce Gianna Maria Chanay, di trovare davanti alla porta della chiesa un bimbo appena nato. Il curato ci comandò di raccoglierlo e, dopo avergli preparato un po' di correttino, di metterlo a balia. Un'altra volta, saputo che una donna molto disgraziata moriva in una parrocchia vicina, mi mandò da lei con una delle mie compagne a prendere il suo bambino, che abbiamo fatto allevare. Don Vianney non volle mai ricevere un soldo dalle fanciulle raccolte nella sua opera. Alcune ragazze, tuttavia, avevano già lavorato in fattorie e forse avevano guadagnato un po' di denaro. Altre avevano tra i parenti persone che potevano dare qualcosa. Monsignor Merbaud, morto parroco di Gex, un giorno glielo fece notare: «Voi ricevete gratuitamente nella vostra provvidenza delle ragazze che potrebbero pagare». Questo rispose: «Non mi interessa. La mia ambizione è soltanto quella di procurare loro una educazione conveniente per farne buone cristiane». L'orfanotrofio costò al suo fondatore preoccupazioni di ogni genere. Dapprima vi si spese tutte le sue risorse personali. Quando Francesco venne a portargli da dargli il denaro ereditato dal padre, si trovava alla canonica di Arse anche il sindaco. «Conta il denaro con il signor Mandì», disse Giovanni Maria al fratello, e dispose subito che tutta la somma fosse passata alla provvidenza. Aveva sperato che i suoi parrocchiani lo avrebbero aiutato con offerte in natura. Fece quindi in paese una questua, che gli rese in tutto un sacco di patate. Si promise di non ripetere più l'esperimento e da allora preferì rivolgersi a ricche benefattrici. Diceva, ridendo, che egli aveva il bastone della provvidenza. Quando la cassa era vuota, andava a fare un giro per cercare denaro. Armandosi di coraggio, batteva alle porte delle castellane. Fece anche a piedi il viaggio a Lione, dove conosceva specialmente le famiglie Laporte e Jaricot. Parecchie volte fece appello anche alla carità di qualche penitente, di cui conosceva la generosità. «Mia buona signorina», scriveva alla baronessa Alice di Belvei, «vengo a chiedervi d'aver parte alle vostre carità per le mie fanciulle, perché so che il vostro cuore è generoso coi poveri. Ringraziandovi anticipatamente, vi presento i miei umili ossequi, raccomandandomi alle vostre sante preghiere». Nella sua chiesa, vicino alla sagrestia, aveva posto un cartello con queste parole del Vangelo: «Date e vi sarà dato». Per un momento gli venne l'idea di diventare proprietario. Mise da parte un po' di denaro e, quando la somma fu sufficiente, acquistò boschi e terre con l'intenzione di dotare la sua provvidenza. Ma subito li cedette al conte di Chivens, che doveva pagargliene la rendita. Quella rendita annuale perpetua raggiungeva la somma di 500 franchi. Inoltre il conte si impegnava a fornire all'orfanotrofio la legna necessaria per il riscaldamento. 500 fascine valutate a 100 franchi. Ogni anno, infallibilmente, Don Vianney manderà Caterina Lassagne a ritirare la piccola rendita e a ricordare la buona usanza del castello di fornire il riscaldamento alla provvidenza di Ars. In realtà, solo dopo questa vendita, Don Vianney, trovandosi un po' più ricco, cominciò ad accettare il maggior numero possibile di orfanelle. Dal 1830, cioè per quasi 20 anni, la casa fu sempre piena. In certi periodi vi erano 60 fanciulle e anche più. Del resto, le direttrici, simili alle chiocce che non stanno a contare i loro pulcini, si preoccupavano assai poco di far delle statistiche. interrogate un giorno da una persona amica dell'opera sul numero delle loro orfanelle, risposero con l'aria più candida: «Non lo sappiamo». «Come? Non lo sapete?» «No, creda, lo sa il Signore e questo ci basta». «Ma se una delle ragazze vi scappasse?» «Le conosciamo troppo bene e siamo troppo occupate dietro a loro per non accorgercene subito». I momenti di prova e i miracoli. Con entrate tanto limitate, furono necessari veri prodigi di economia, di ingegnosità e di fede per tirare avanti e far crescere la provvidenza di Ars. Don Vianney, egli infatti se n'era assunta tutta la responsabilità, doveva nutrire e vestire 60 fanciulle, il cui lavoro non rendeva quasi nulla alla casa. Ora tutte quelle piccole bocche mostravano un formidabile appetito e si doveva assicurare almeno del pane nero a quegli uccellini caduti o cacciati dal nido. Per questo ci volevano 100 staia di grano al mese. Il padre adottivo di tutte quelle povere orfanelle avrebbe dovuto vivere in continue preoccupazioni se non avesse confidato nella bontà di Dio, con quella sublime imprevidenza dei santi che non viene ingannata. Tuttavia ci furono momenti assai critici. Nonostante che il curato d'Ars implorasse la carità, vendesse qualche mobile od oggetti di casa, più volte le orfanelle mancarono veramente del necessario. In simili ore le direttrici, meno fiduciose, provarono angosce crudeli. Il servo di Dio le riprese allora severamente per la loro mancanza di fede. Un giorno, racconta Caterina Lassagne con la sua abituale semplicità, non eravamo contente che ci affidasse la cura di tante fanciulle. Ci sembrava un lavoro superiore alle nostre forze e per la prima volta ci sfuggirono alcune parole di mormorazione. Gianna Maria in quel momento andò a portare qualcosa al signor curato. Sembrava contrariato. Disse a Gianna Maria che non avevamo più le stesse disposizioni che avevamo in principio, che non eravamo abbastanza sottomesse alla volontà di Dio. Gianna Maria rispose: «Beh, io sì, sa come sono, ma le altre non mormorano». «Siete tutte e tre uguali», replicò il curato. Gianna Maria, di ritorno, ci riferì la cosa. Proprio durante la sua assenza, benedetta ed io, e ci eravamo permesse qualche parola di mormorazione. Prendemmo allora la risoluzione di non lamentarci più. Ma anche lui, la sceta della rassegnazione silenziosa, non condivideva in segreto il loro tormento. In chiesa, nella solitudine della canonica, per strada, pregava senza interruzione e quando la risposta del cielo tardava, egli, secondo la sua pittoresca espressione, rompeva la testa ai suoi santi. In tali circostanze Dio intervenne direttamente in suo favore col miracolo. Anche qui non facciamo che ascoltare testimoni contemporanei al Vianney veramente degni di fede. Molto probabilmente, durante il 1829, la provvista di frumento che allora si teneva nel granaio della canonica si ridusse a qualche manciata sparsa sull'impiantito. Nulla da sperare dai parrocchiani, il raccolto era stato indubbiamente cattivo. C'era sì la castellana caritatevole, ma anche le sue rendite risentivano della comune penuria. Del resto, da lei aveva già battuto cassa tante volte. In breve, Don Vianney pensò di rinviare una parte delle orfanelle. Che desolazione per il suo cuore tanto affezionato a quelle fanciulle. Povere piccine, sarebbero quindi tornate alla loro miseria, ai pericoli dell'anima e del corpo. Non sperando più dagli uomini, il curato d'Ars tentò un'ultima strada. Per l'intercessione del buon santo, che l'aveva già visibilmente esaudito al tempo dei suoi studi, implorò un vero miracolo. Raccolse in un unico mucchietto, in mezzo al granaio, il poco frumento sparso sull'assito. Vi nascose una piccola reliquia di San Francesco Regis, il taumaturgo della Louvèche. Poi, dopo aver raccomandato alle orfanelle di unirsi a lui nel chiedere a Dio il pane quotidiano, si mise a pregare ed attese tranquillo. «Andate a prendere il grano che ci resta sul solaio», disse a Gianna Maria Chanay, che sopraggiungeva in quel momento. Gianna Maria, che era la fornaia della provvidenza, veniva forse a ricordargli che la madia era vuota. Che sorpresa! La porta del solaio si apre con fatica e dalla stetta apertura sgorga un rivolo di frumento. Gianna Maria si precipita giù dal curato. «Voi avete voluto mettere a prova la mia obbedienza. Il granaio è pieno». «Come è pieno?» «Sì, è rigurgitante. Venite a vedere». Corrono di sopra e notano che il grano nuovo ha una colorazione diversa da quello vecchio. Il granaio non era stato mai tanto carico. C'era da meravigliarsi che la trave maestra, un po' tarlata come il pavimento, non avesse ceduto sotto il peso. Il mucchio di grano aveva la forma di cono e copriva tutta la superficie del granaio. Monsignor De Vi, visitando un giorno il posto, in compagnia di Don Pianè, gli chiese a bruciapelo: «Il frumento arrivava fin qui, vero?» E il vescovo indicava un punto abbastanza elevato del muro. «No, monsignore, più alto, fin qui». Un po' più tardi avvenne in Ars un secondo prodigio che rese celebra la madia della provvidenza. Le campagne erano una desolazione per la siccità. La farina era rara e cara. Quella che rimaneva in casa era, sì e no, abbastanza per fare 3 pani. «Eravamo molto in pena per le nostre fanciulle», racconta Gianna Maria Scianai. «Caterina ed io pensammo che se il signor curato l'avesse chiesto al buon Dio, avrebbe ottenuto che la nostra poca farina ci desse almeno una fornata di pane. Andammo da lui per esporgli la nostra preoccupazione. «Impastate», ci disse. Mi misi all'opera non senza una certa apprensione. Dapprima versavo un po' d'acqua e di farina nella madia, ma vedevo che la mia farina era sempre troppo spessa. Allora aggiungevo un po' d'acqua e un altro po' di farina, senza che la mia piccola provvista diminuisse. E la madia fu piena di pasta, come quando vi si versava un gran sacco di farina. Abbiamo fatto 10 pani del peso di 20-22 libbre ciascuno e abbiamo riempito il forno, come al solito, tra lo sbalordimento di tutte quelle che erano testimoni. Raccontammo al curato ciò che era accaduto ed egli ci rispose: «Iddio è molto buono, egli ha cura dei suoi poveri». Il bene realizzato dalla provvidenza. La creazione della provvidenza di Ars produsse un bene notevole. «Spesso», scrive Caterina, «ho sentito il signor curato dire che soltanto nel giorno del giudizio avremmo visto il bene prodotto in questa casa». Infatti, l'opera del santo salvaguardò la virtù di centinaia di fanciulle, le quali in quel luogo impararono a guadagnarsi da vivere in modo onesto. Se qualcuna non ha perseverato, un grande numero hanno tratto profitto in modo ammirevole dai consigli di Don Vianney. Sono diventate, in seguito, buone madri di famiglia o buone domestiche. Parecchie hanno anche abbracciato la vita religiosa. La loro delicatezza di coscienza era divenuta proverbiale. Un uomo di nome Lacotte, conosciuto in paese per la sua avarizia, a settembre domandava sempre per la vendemmia l'aiuto delle orfanelle, sicuro che esse non gli avrebbero mangiato neppure un chicco d'uva. Il curato d'Ars associò quelle ragazze, che aveva come fatto uscire da un altro mondo, alle sue preoccupazioni e penitenze per i peccatori. Quando il curato, dice Caterina, affermava che il buon Dio era stato offeso dagli scandali, nelle feste e nei balli, le maggiori chiedevano alla loro maestra di trascorrere la notte in preghiera per chiedere perdono per i peccatori. Si arrangiavano da sé, svegliandosi a gruppetti in ogni ora della notte, e tutto senza nessun rumore, in modo che quelle che non erano di turno non si accorgevano neppure. Quelle ragazze a passeggio coglievano delle ortiche per pungersi. Il santo curato aveva loro detto che bisogna patire per i peccatori. Nell'orfanotrofio il santo esercitava un prestigio sorprendente e otteneva dalle fanciulle tutto ciò che voleva. Citiamo come prova questo grazioso episodio. Una delle piccole della provvidenza adorava una bambola, peraltro molto brutta e sporca, ma a cui la bimba teneva enormemente, tanto che la portava sempre con sé anche in chiesa. Don Vianney un giorno gliene chiese il sacrificio e le disse di buttarla sul fuoco. Erano nella cucina dell'orfanotrofio. La povera bimba dapprima parve sconcertata, ma poi improvvisamente si decise e gettò risolutamente il suo idolo sulle fiamme. Ci voleva semplicemente dell'eroismo. Parecchie di quelle ragazze ebbero delle morti ammirevoli, degne d'essere descritte nella leggenda aurea. Alcune erano contente di morire, perché così andavano in paradiso. Altre cantavano o chiedevano che si intonasse un cantico di ringraziamento. Ce n'era una che aveva molto tremato dinanzi alla morte. «Come sono contenta», diceva poco prima di morire, «quanta felicità nella religione». E mentre le sue compagne attorno a lei recitavano un cantico che le piaceva, con tutte le forze ella univa la sua voce alla loro. Una delle maestre, si tratta di Benedetta Lardet, sepolta il 5 ottobre 1830, fece anch'essa una morte edificante. Alla sorella che piangeva, vedendola tanto ammalata, disse: «Non fai bene a piangere. Vorresti dunque che rimanessi al mondo? Non mi ci posso abituare». «Che gioia!» esclamò, sentendo dal dottore che non c'era più speranza. «Che gioia! Vado a vedere il Signore!» Un modello di educazione popolare. Certo, vedendo le fanciulle della provvidenza salire in virtù sino a questo grado di eroismo, il curato d'Ars poteva consolarsi avendo raggiunto il suo scopo e vedendo adempiute le sue intenzioni. Non aveva mai pensato di fare di quelle orfanelle strappate alla miseria delle donne sapienti. Del resto, poteva ingannarsi sulla capacità delle direttrici? Ma l'ortografia fantastica dell'eccellente Caterina non lo scandalizzava affatto. Inoltre, a quella sceta che campava con ciò con cui un altro sarebbe morto, che aveva lasciato la canonica talmente in abbandono che sembrava piuttosto la dimora di uno spirito, la questione igienica parve sempre di poca importanza. Nella sua eccessiva bontà si rassegnò ad alloggiare 60 fanciulle, dove una trentina si sarebbero già trovate un po' a disagio. La ristrettezza del locale obbligava tutte le scolare, orfanelle e fanciulle di Ars, a riunirsi nella medesima aula scolastica. Possiamo immaginare che bel concerto, quando le più bencine compitavano a squarciagola il sillabario, le mezzane recitavano le lezioni e le anziane ascoltavano le spiegazioni. Aggiungete che c'era scuola tutto l'anno, senza vacanze, tolto il giovedì. Caterina e le sue compagne si erano assunte un compito sovrumano. Come avrebbero potuto trovare molto tempo per l'ordine e la pulizia? I forestieri, dopo aver visitato la provvidenza, partivano con l'impressione che non era una casa come le altre. L'esistenza dell'orfanotrofio, creato da Don Vianney, scrive un avvocato di Lione che visitò l'opera accuratamente nel 1841, ci parve da sola una cosa meravigliosa. Lo stabile conteneva 50 o 60 fanciulle, alcune di 12, altre di 15 o 18 anni. Venute da tutti i paesi e ricevute gratuitamente, vi passavano un tempo indeterminato, quindi erano sistemate nelle fattorie del paese. Durante il loro soggiorno imparavano a conoscere, ad amare, a servire Dio più di ogni altra cosa. Era una specie di famiglia, nella quale le anziane davano esempio, consiglio e insegnamento. L'istruzione non era molto profonda, ma vi regnavano una fede, una pietà, una docilità ammirabili. Non si trattava di un'istruzione comune, ma piuttosto di una vera emanazione della santità del suo fondatore. Denaro, vita, spirito, direzione, tutto veniva da lui. Opera con caratteri soprannaturali, che poteva vivere solo per l'influenza immediata dell'anima eminente che l'aveva fatta nascere. Come si vede, per il curato d'Ars l'educazione veniva sempre prima dell'istruzione. Tuttavia, per testimonianza dei contemporanei, la maggior parte di quelle ragazze ebbero alla provvidenza una istruzione elementare sufficiente. Erano anche addestrate nei lavori domestici, sapevano lavorare a maglia, cucire, lavare e stirare. Che si poteva esigere di più da fanciulle destinate ad abitare in qualche paese di campagna? Soprattutto in quell'eccezionale ambiente avevano acquistato abbastanza virtù e pietà da poter affrontare i pericoli morali e le prove di ogni specie che le attendevano. San Pio X considerava sotto questo aspetto la provvidenza quando la proclamò un modello di educazione popolare. L'opera preferita dal santo. La provvidenza di Ars fu senz'altro l'opera preferita di Don Vianney. Amava quella casa, dice la baronessa di Belvei, che ne fu benefattrice, perché dedicata a povere fanciulle. Quando le direttrici furono sufficientemente organizzate, cioè verso il 1827, fu contento di liberarsi di una occupazione che gli pesava, cioè della preparazione dei propri pasti. Padre putativo di una grande famiglia, per 20 anni chiese ogni giorno l'elemosina di una tazza di latte. Era inutile che si volesse servirlo, perché si prendeva da sé in un angolo del focolare la ciotola con la sua pietanza, e 5 minuti erano anche troppi per consumare quel sommario pranzo. Più di una volta, quando aveva molta fretta, si portò dietro la ciotola e ne trangugiò il contenuto nel tragitto dalla provvidenza alla chiesa. Ordinariamente, tuttavia, dopo il pasto, il curato d'Ars trascorreva qualche minuto nel cortile, dove si divertivano le fanciulle. Leggeva nei loro occhi il candore della loro anima, e quello spettacolo di innocenza gli faceva dimenticare per un momento le brutture del peccato e la malizia degli uomini. Le conosceva tutte, di tutte si interessava, le interrogava e le incoraggiava con un paterno sorriso. Egli stesso dava lezioni e suggerimenti pratici per la vita, fino a insegnar loro a comportarsi bene a tavola. Quando voleva ottenere qualche grazia, le incaricava di pregare, e in quei casi, diceva, era sempre esaudito. Aveva sperimentato, come affermava, che le preghiere dei fanciulli salgono al cielo imbalsamate di innocenza. Per le sue fanciulle aveva fatto piantare nel giardino dell'orfanotrofio un pergolato di vite, trasformato ben presto con una statua dell'Immacolata in un oratorio campestre. Le ragazze la ornavano di fiori e nelle giornate belle la comunità vi si riuniva dinanzi ogni sera per la recita delle litanie della Vergine e per cantare una lode in suo onore. La maggior parte delle orfanelle non lasciavano definitivamente la provvidenza se non all'età di 19 o 20 anni. Alcune, è vero, prima di quell'età andavano a servire nelle fattorie del paese, ma solo durante i lavori invernali. Don Vianney non le abbandonava alla loro partenza, aveva già loro cercato una sistemazione conveniente. Più tardi le consigliava per il matrimonio, dava loro un po' di denaro e forniva capi del corredo. Seguiva specialmente nella vita, con i suoi incoraggiamenti e con le sue preghiere, quelle che si facevano religiose. Mai padre si mostrò più preoccupato di lui e fu più amato. I catechismi e la cappella della provvidenza. I celebri catechismi di Ars furono inaugurati alla provvidenza nell'aula scolastica. Ebbero umili inizi. Qui infatti Don Vianney non fece nessuna innovazione. Ogni pastore d'anime, cosciente dei suoi obblighi, istruisce nel catechismo i piccoli del suo gregge. Già abbiamo visto come da ogni santi al tempo delle prime comunioni il santo curato teneva il catechismo per i piccoli riuniti in chiesa alle 6 del mattino. Avrebbe potuto istruire nello stesso tempo anche le alunne della provvidenza, ma preferì istruirle a parte più a lungo e tutti i giorni per fare loro meglio penetrare la vita cristiana. La scuola del mattino terminava con la recita delle litanie della provvidenza. Durante questi pochi minuti di raccoglimento si apriva adagio la porta ed entrava il curato. In principio alle lezioni di catechismo assistevano soltanto le direttrici e le fanciulle. L'andare e il venire di Don Vianney passavano ancora inosservati, ma quando cominciarono ad affluire i pellegrini, quelli che lo cercavano a quell'ora discesero all'orfanotrofio. Dapprima si fermarono ad ascoltare ad una finestra, poi s'affacciarono alla finestra, poi un bel giorno, essendo rimasto libero un po' di spazio, entrarono nell'aula. Così si fece fino al 1845. La cosa, peraltro, avveniva in famiglia. C'erano, come riferisce il canonico Champenois di Bourg, che fu testimonio della scena nel 1842 o 1843, le fanciulle della casa, buone donne che filavano con la conocchia, le direttrici spesse occupavano così rari momenti di libertà, e, se ricordo bene, alcune galline appollaiate sulla tavola. Il curato entra in cotta, prende un catechismo e, appoggiandosi alla madia, incomincia: «Fanciulle mie, siamo rimasti ieri alla lezione sul matrimonio». Legge la domanda: «Qual è la causa ordinaria del fallimento dei matrimoni? Quindi legge la risposta e poi spiega. Ragazze, quando due si sono appena sposati, non smettono di contemplarsi. Si trovano tanto amabili, con tante belle qualità. Si ammirano e fanno mille moine. Ma la luna di miele non dura sempre. Viene un momento in cui essi dimenticano le belle qualità che avevano scoperto nell'altro ed ecco i difetti che prima non avevano notato. Allora ce n'è di quelli che non possono sopportarsi e il marito chiama la moglie fannullona, vipera, buona a nulla, eccetera. Il canonico Jean Benoit aggiunge: rimanevo stupefatto di quella familiarità e di quella spigliatezza. Diedi un'occhiata all'assemblea, tutti ascoltavano in religioso silenzio, neppure un sorrisetto. A partire dal 1845, l'affluire sempre più numeroso dei pellegrini ai suoi catechismi obbligò Don Vianney a tenerli nella chiesa. Una signora di Bourget, che li aveva seguiti fin da quando si tenevano alla provvidenza, racconta Don Dufour, me ne parlava con entusiasmo. A lei dispiaceva tuttavia che fossero stati trasportati in chiesa perché nell'aula scolastica si vedeva meglio e più da vicino il servo di Dio. Possiamo comprendere tale rincrescimento, tuttavia l'averli trasferiti in chiesa ebbe risultati felici. Un numero sempre maggiore di pellegrini poté udire così in Don Vianney, il quale senza abbandonare il suo tono familiare ebbe maggior slancio e diede maggior sfogo alla fiamma d'amore che gli bruciava il cuore. Ora parlava presso il tabernacolo. Presto, con l'approvazione di Monsignor De Vie, il curato d'Ars progettò di aprire nell'orfanatrofio una cappella. Forse qualcuno poteva chiedersi di quale utilità sarebbe stata essendo posta a pochi metri dalla chiesa, ma il santo aveva il suo scopo e nutriva sul modesto santuario speranze che fortunatamente non si realizzarono. Tormentato dal desiderio della solitudine, sperava di non aver più un giorno cura di anime e nel pensiero sognava il momento in cui avrebbe potuto ritirarsi nella sua provvidenza ed avrebbe stabilito una adorazione perpetua se tale fosse stata la volontà di Dio. Il comune concesse il terreno necessario, la cappella fu costruita, ma allora si mostrò la volontà di Dio. Non era ancora terminata la cappella che la provvidenza non esisteva più sotto la forma in cui Don Vianney l'aveva fondata. Continuò a vivere quindi nella sua canonica e fino alla fine rimase il curato d'Ars.